con Italo Spinelli, direttore dell'Asiatica Film Festival a Roma, al Nuovo Saker e al Wegil dal 4 al 10 ottobre. Italo, ben trovato. Salve, buongiorno. Raccontaci questa edizione. Dunque, un'edizione come sempre realizzata con molta difficoltà sotto il profilo economico, però e delle risorse. Comunque, credo che sia un programma particolarmente interessante quest'anno, che spazia dalla Turchia fino al Giappone, quindi dal Medio Oriente all'Estremo Oriente, con una trentina di film, mi sembra, di grande qualità, e documentari. Ci sono dei film, 9 in competizione e 3 documentari in competizione, e la provenienza dei film, appunto, dicevo, dalla Turchia fino al Giappone. Sono film che, come Imagine Land, premiato col Pardo d'Oro a Locarno. Da noi era stato già selezionato prima che vincesse il premio a Locarno. Ci abbiamo molti film da una regione poco frequentata, che è il Centro Asia, quindi dal Kirghizistan, dalla Georgia, che è un po' border rispetto all'Asia, e poi dall'Uzbekistan. Quindi c'è un'attenzione, diciamo, al Centro Asia, pur sempre continuando a esplorare la cinematografia filippina piuttosto che la nuova cinematografia cinese. Soprattutto la novità è quella che, accanto al Nuovo Sacher, al Wigil, al Palazzo della Regione ex Gil, ci saranno tutti i giorni dalle 11 alle 7 di sera degli incontri, che iniziano con June Palaiari, scrittrice statunitense di origini bengalesi, poi con Amitrano, Giorgio Amitrano, il professore. Ci sarà un excursus sul Giappone anche attraverso il suo nuovo libro. Quindi una serie di incontri che si svolgono parallelamente alle proiezioni del film e che in qualche modo raccontano il paese oltre la cinematografia, in una sorta di così, excursus anche geopolitico e letterario rispetto ai paesi che poi scorrono nei vari film. Se non sbaglio, 19ª edizione. Sì, infatti, Ci racconti un po' andata già in l'excursus finale. storico dell'Asiatica? Beh, appunto, l'Asiatica è nata nel 2000, con questo intento di creare un ponte di comunicazione attraverso soprattutto l'Italia e i paesi dell'Asia. Nel 2000 l'Asia non era così affermata, l'Asia cinematografica nel mondo, e anche la Cina non era quella potenza economica che poi è diventata, e quindi era uno spazio in qualche modo che ci sembrava utile riempire di cinema prima di tutto, perché era il mezzo più idoneo, e per la passione del cinema e per raccontare un paese, perché quello che poi le parole raccontano e che vanno connesse con un pensiero, nel cinema sono un'inquadratura che in qualche modo sintetizza anche la storia dei passaggi, ed è il cinema, quella potenza che è il cinema, che racconta attraverso la musica, l'architettura, i paesaggi, le psicologie, le situazioni, raccontano queste realtà. E credo che l'Asia, nel frattempo, in questi 20 anni, si è affermata non solamente sotto un profilo politico, economico, ma soprattutto, diciamo, nelle sue espressioni cinematografiche, sbancando a tutti i festival, tra l'altro europei, da Cannes a Venezia a Berlino. E quindi è diventata una realtà la cinematografia asiatica. Quando abbiamo iniziato non era così. Nel frattempo, ad ogni manifestazione è cresciuto delle cose parallele, come l'archivio d'Oriente, cioè materiali d'archivio rivisitati da cineasti contemporanei. Asia di carta, appunto, che è questo racconto attraverso i libri della realtà asiatica, e diciamo così, quello che posso affermare è che in qualche modo, rispetto alla globalizzazione, che ha degli aspetti socio-economici ma anche, diciamo, bellici, ha sconquassato il mondo, invece l'aspetto, diciamo, culturale in qualche modo continua ad unire delle realtà, delle popolazioni diverse, e quindi, diciamo così, è un rapporto con quello che appare essere altro da noi, ma che non è altro che parte dello stesso problema che tutti ci confrontiamo tutti i giorni, e che è quello della convivenza. Allora, ricordiamo, 19ª edizione di Asiatica Film Festival a Roma, in un doppio spazio, Nuovo Saker e Vigil, dal 4 al 10 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Italo Spinelli. Posso aggiungere velocissimamente, certo, qualcosa? Volevo semplicemente aggiungere che il 3 c'è l'opening al Vigil, che sarà appunto di danza sufi, di prodotti gastronomici asiatici, di musica, dei primi incontri, e che si svolgerà dalle 6 alle 22 al Vigil, per poi andare al Nuovo Saker per l'opening film, che è un magnifico film kirghizo. In chiusura, Italo, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, direi www.sergafilmfestival, trovate tutto il programma, così su Facebook, così come Instagram e altre corbellerie, diavolerie in cui oggi passa la comunicazione. Un abbraccio, Italo, a presto. Forte, a prestissimo. Ciao.